Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un nuovo appuntamento con gli incontri con i grandi protagonisti del cinema, della musica, della cultura. La nostra voce in scena di oggi è quella di un cantautore siciliano. È nato a Siracusa nel 1963, ma i suoi esordi sono a Catania. Dopo i primi gruppi con l'amico Tony Carbone, incontra i fratelli Gabriele e Luca Madonia, con i quali nel 1982 inizia l'avventura dei De Novo. Un sodalizio di successo che durerà poco meno di 10 anni. Nel 1994 l'album solista d'esordio, ma continua a collaborare con gli artisti della scena catanese come Carmen Consoli, Franco Battiato e lo stesso Luca Madonia. Nel 2004 il premio della critica al Festival di Sanremo con Crudele e una carriera di grandi successi, sempre notevoli collaborazioni e qualche altro Sanremo. L'ultimo album è il 7° da solista, L'ultimo romantico. Lui è Mario Venuti. Ma guarda, oggi innanzitutto ho scelto il titolo proprio per contrasto con i tempi che viviamo, che sono estremamente ossessionati dalla razionalità numerica, no? degli indici di borsa, per carità, della crisi economica che effettivamente impone e crea anche sofferenza, quindi c'è tutta la mia comprensione, però per contrasto il nostro lavoro diventa automaticamente una cosa, non è superflua, però assume dei contorni romantici, è un qualcosa che deve far evadere dalla realtà, dalla razionalità, e il romantico è appunto questo: chi reagisce alla razionalità, chi cerca nel sogno una risposta, uno slancio, una lotta anche per i propri ideali. Romantico oggi chi occupa il Teatro Valle per la cultura e il Teatro Garibaldi a Palermo perché si possa continuare ad avere degli spazi per fare cultura, perché veniamo da un periodo in cui tutto è stato troppo teso al profitto economico e a senso unico, e questo ci ha abbrutiti. Fatti non foste per vivere come bruti, eccetera eccetera. Tienimi con te, con i miei splendori e con le mie miserie, insegnami l'alfabeto nel tuo corpo, che lingua parlano le tue mani. Crede nei sogni, crede anche nell'amore. C'è tanto amore in questo disco, anche se fondamentalmente è anche quello che ci manca. Naturalmente il vero romantico ottocentesco si consumava in lunghi carteggi soltanto con la vista fugace, uno sguardo con la persona amata, quindi succedono queste cose, e quindi insomma spesso è più quello che desideriamo, quello che è appunto è la mancanza che ce ne fa sentire la presenza. Sono meno romantici quei praticoni che si accontentano pur di non restare soli, di stare con chi che sia, e sono molto meno romantici. Quello che per gli altri è tutto oro, che risplende a volte a me, sembra metallo che non ha valore, tutto è futile. A proposito di citazioni, di echi, di rimandi, ci sono anche echi e rimandi a generi vari. Nelle note che accompagnano il disco c'è scritto che è anche un privilegio dell'età. Questa cosa l'hai pensata tu o te l'hanno scritta? Perché insomma è una riflessione che si fa. Sicuramente quando si è ascoltata tanta musica nel corso del tempo si è avuto insomma modo di maneggiare tanta materia musicale, alcune ti ha lasciato il segno, e poi col tempo appunto diventa un gioco che si è fatto anche con la dovuta ironia, insomma serve un pochettino a spiegare meglio anche quello che vuoi dire nelle canzoni, no? Cioè, mettere una musica disco anni 70 su una canzone come Fammi il piacere, io inizialmente non ci avrei pensato, però poi con la band in studio abbiamo trovato che era perfetto perché dava ancora di più l'idea di questo mondo così un po' frivolo, fatto di discoteche, di donne con i tacchi alti che vanno così rampanti alla ricerca del successo effimero. E quindi, e poi sai, il pop e il rock sono da diversi anni ormai un'arte citazionista, sono si riferisce sempre a qualcosa del passato, cioè si rimescolano un po' le carte di quello che è avvenuto negli anni precedenti, con magari un po' rimodernando le sonorità, eccetera, però è tutto un rimescolare, un ricitare se stesso, del pop, diciamo, il periodo aureo è stato negli anni 60 e 70, ma già anche lì si cominciava un po', anche negli anni 60 si guardava delle cose, gli anni precedenti, però adesso la cosa è diventata molto più evidente, è stata esaminata anche da tanti critici, cioè il pop è un'arte citazionista, cita se stessa da diversi anni. Canzone con qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Si può fare una canzone con qualsiasi cosa, qualsiasi cosa. Questo è inevitabile o è anche un po' la causa di una certa stanchezza dal punto di vista discografico, magari non solo musicale, ma anche proprio dal punto di vista dell'industria che sta arrancando molto? Le cose un po' si inseguono, un po' il cane che si morde la coda. La fruizione della musica è cambiata, è tutto molto più veloce, anche un po' superficiale, la soglia di attenzione si è abbassata, per cui non si ha molto più voglia, tempo di stare lì, ascoltare e riascoltare le cose per comprenderle, per cui ci si fa capire anche attraverso dei segni che rimandano ad altre cose già conosciute. E credo sia anche un segno dei tempi. Io spero comunque di continuare a fare dei dischi che si prestino a ripetuti ascolti, perché dal punto di vista dei contenuti, insomma, spero che chi si avvicina a quello che faccio abbia voglia poi di riascoltare le cose e di entrarci come facevamo appunto noi negli anni passati, quando la musica era più al centro della vita, della società, era più condivisa, no? I dischi si consumavano. Oggi è tutto un po' migliaia di giga nell'iPod, si passa 10 secondi, si passa avanti, magari questo è un po' più superficiale. E l'album, esiste ancora il piacere dell'album secondo te? Piacere di farlo? Presumo di sì. L'aspettativa nei confronti di chi ascolta, che ormai anche qui magari morde e fugge il singolo o un brano nello shuffle, nel flusso infinito dello shuffle? Io spero ancora di sì. Io anche mi riferisco, faccio un po' riferimento, no, insomma, non essendo nato oggi, insomma, mi sono costruito nel tempo un pubblico che mi segue, che quindi apprezza poi anche gli album nella loro interezza. Io mi curo anche di non fare degli album che siano fatti semplicemente di due canzoni buone e il resto fuffa. Anzi, metto parecchia carne al fuoco, quindi mi auguro che trovi che ci sia qualcuno che apprezzi anche, quindi che quando spende dei soldi per un album, pensa che siano ben spesi perché c'è carne al fuoco. Anche se posso chiudere. Qualche minuto fa hai detto la parola magica Catania, questa città. Beh, sicuramente gli anni 90 sono stati un periodo aureo, perché c'era la Ciclope, era un periodo in cui fiorivano, insomma, le produzioni, e poi si è tutto un po' oscurato, e anche la città ha attraversato un periodo, anche dal punto di vista della gestione politica, piuttosto infelice. Però per fortuna Catania è una città che si basa molto sull'iniziativa personale, nel senso che comunque i piccoli club, le cose, diciamo, le cose istituzionali non ci sono più, perché non ci sono neanche più i soldi. Però ci sono delle persone volenterose come Diego Vespa, dei Mercati Generali e altri, che comunque fanno delle proposte, hanno dei luoghi che sono speciali, e che fanno delle proposte magari più di nicchia, però sempre molto interessanti, portano dei nomi sia nel campo del pop, del rock, i DJ set, insomma, comunque la città è sempre piacevole e viva. Nella scena siciliana anche autori fondamentali, con uno di questi collabori da sempre, che è Caballà. Quanto è importante adesso recuperare l'importanza anche degli autori in questo, lo dicevamo, momento difficile? Ma mi dicono che c'è una nuova voglia di sentire canzone d'autore, una nuova leva di autori che vengono che si fanno avanti con la forza delle cose che dicono, perché siamo stati fin troppo, i talent show ci hanno fin troppo hanno troppo inflazionato il campo con delle belle voci, che però sono dei bei contenitori privi di contenuto, insomma, in pratica, perché si può anche cantare bene, stare bene sulla scena, però bisogna anche avere dei contenuti e delle idee. Forse servono più idee che voci, ecco. E per Voci in Scena di oggi è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana.